La questione delle spese militari per la Spagna è una questione delicata per diverse ragioni. Storicamente la Spagna ha dedicato alle spese militari una percentuale del PIL relativamente bassa, fino all'anno scorso era intorno all'1%, quindi molto lontana dagli attuali obiettivi della NATO. Questa posizione, diciamo, storicamente è stata giustificata in diverse maniere. Insomma, ricordiamo che la Spagna ebbe tutto un grande dibattito negli anni 80 per entrare no nella NATO, tra l'altro fu un dibattito, come sempre in questi casi, all'interno della sinistra, perché i socialisti sì che volevano entrare, che erano allora al governo come oggi, e invece i partiti di sinistra no, e alla fine insomma la Spagna entrò, però ovviamente senza un grande entusiasmo militarista, tanto è così che persino durante i molti anni di governi di destra gli investimenti per le spese militari sono sempre rimasti bassi. Durante la crisi, diciamo, la scusa era la crisi, e negli anni successivi la stessa cosa. Nonostante questo fatto, sì che è vero che negli ultimi anni, diciamo proprio verso la fine del mandato dei popolari, fino all'inizio anche del mandato di Pedro Sánchez, le spese sono andate aumentando a poco, non tanto formalmente in finanziaria quanto con queste spese, diciamo, che sono extra finanziaria, che però poi alla fine vanno sempre verso quella direzione lì. Nonostante questo, insomma, gli investimenti sono sempre stati piuttosto bassi. Che cosa è accaduto? Che qualche mese fa, sotto le pressioni della NATO e dei nuovi scenari geopolitici mondiali, Sánchez aveva accettato, in nome della Spagna, di aumentare la spesa militare fino al 2%. All'inizio aveva detto che no, era entro il 2030, poi alla fine è venuto fuori che invece era già da quest'anno. Questo ha creato numerosi scompigli nella sua fragile maggioranza, perché nessuno dei partiti di sinistra, in realtà dei molti che lo devono appoggiare, era d'accordo, ma insomma in qualche modo questo 2% più o meno è riuscito a farlo ingoiare a tutti, più o meno malvolentieri. Dopodiché, diciamo, tirare più la corda di così per lui è impossibile, tanto più che in questo momento Sánchez è immerso in una crisi politica piuttosto grave. Se già fino adesso la sua maggioranza era fragile e poco stabile, con il caso di presunta, però verosimile, corruzione di due delle sue mano destre negli ultimi anni, ovviamente, diciamo, la sensibilità è a fior di pelle. I partiti, soprattutto quelli alla sua sinistra, sono assai meno propensi ad appoggiarlo di quanto non fosse accaduto finora. Quindi, diciamo, se lui avesse tirato la corda anche su questo aumento fino al 5%, inevitabilmente questa volta si sarebbe rotta. Detto questo, Sánchez è molto abile a fare le cose e a raccontarle in un altro modo, per cui in realtà il governo spagnolo ha deciso di appoggiare la dichiarazione finale della NATO, perché ricordiamo che la NATO ha bisogno dell'unanimità, un po' come l'Unione Europea in molte decisioni, insomma. Quindi la dichiarazione finale della NATO la Spagna l'appoggerà, quindi, diciamo, con questo obiettivo del 5%, eccetera. Però Sánchez è riuscito in qualche modo a negoziare che nella parte, diciamo, scritta degli impegni, la Spagna ritiene di poter raggiungere gli obiettivi militari congiunti con una spesa più bassa, cioè del 2,1%. E dopodiché Rutte invece ha detto che secondo loro ci vuole almeno il 3,5%. Quindi è anche qui una questione un po' anche di, non so se di lana caprina o di giocare con le parole, nel senso che Sánchez non si vuole impegnare a aumentare fino al 5%, però comunque si impegna a raggiungere gli obiettivi. Quindi nel momento in cui gli obiettivi non venissero raggiunti, a un certo punto comunque si è impegnato indirettamente ad aumentare questa percentuale. Però intanto ha preso tempo, diciamo. Esatto, proprio quello che stavo per dire. Secondo me questa strategia gli serve per prendere tempo e respirare un po'. Magari da qui a 2 anni non c'è neanche più lui.